America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Experts tell us defense wins championships, but the offense has other ideas. In Super Bowl 49 they finally meet to settle the score. Ecco, avete sentito la grande tifoseria, grande agitazione, grande emozione. Perché? Perché domenica ci sarà il Super Bowl a Glendale, Arizona, si giocherà la finale del grande football americano. La finale hanno davanti al televisore, a casa, nei bar sportivi, nei caffè. Vi racconterò poi lunedì, ovviamente, come è andato il Super Bowl di domenica sera. Vorrei però oggi dedicare la puntata alle questioni internazionali. Vorrei tornare su queste questioni internazionali. Ieri vi dicevo come Janet Yellen aveva introdotto le preoccupazioni, o comunque il fatto che la Fed comincerà a seguire eventi internazionali, e come elemento che potrebbe influire le scelte della banca centrale americana. 观众朋友们大家好, 欢迎收看叮叮快讯。 2015年1月10日晚, San Jose 的 CREATV 举行了一年一度的颁奖典礼。 Ecco, gli eventi secondo me possono essere il più diversi possibili. Ieri dicevo che c'era un valzer delle banche centrali, che la Fed era attenta a capire un pochettino cosa facessero le varie banche centrali internazionali. Però come reagire davanti a quello che succede in Cina, dove nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, c'è stata un'ondata repressiva nei confronti di internet? Quando ho viaggiato in Cina al seguito del presidente Obama, vi ho raccontato come da lì fosse impossibile accedere, per esempio, ai siti del New York Times, a quelli del Washington Post, insomma a numerosi siti, a Google americani, che voglio dire, noi tutti usiamo comunemente. In Cina sono oscurati. Ebbene, la situazione è peggiorata di molto perché le autorità cinesi hanno cominciato ad oscurare le cosiddette virtual private network, che sono delle reti di comunicazione internet privata, su cui scienziati, artisti, scrittori, lavoratori, intellettuali, tutti cominciavano a crearsi dei loro sistemi di comunicazione, che avevano spesso a che fare anche con esigenze professionali. Ebbene, per la prima volta ieri abbiamo avuto un'ammissione da un funzionario governativo che l'oscuramento è fatto dal governo cinese. Perché? Perché secondo loro questi strumenti internazionali o globali in arrivo dagli Stati Uniti sono illegali. Ecco, questo per me è un elemento di grande preoccupazione internazionale, perché non sappiamo dove ci porterà. Facciamo un balzo al Medio Oriente. Vi ho raccontato ieri dell'incidente ai confini del Libano, quando Hezbollah ha attaccato un carro blindato israeliano. Attenzione, va collocato questo incidente in un contesto molto, molto più ampio, che ci darà la misura di quanto le tensioni siano forti a livello internazionale. Perché ieri in America c'è stata di fatto una rottura ancora più marcata di quella che poteva esserci prima, quando c'era freddezza. Siamo passati al gelo fra Barack Obama e Benjamin Netanyahu. Our diplomacy is at work with respect to Iran, where for the first time in a decade we've halted the progress of its nuclear program and reduced its stockpile of nuclear material. Between now and this spring, we have a chance to negotiate a comprehensive agreement that prevents a nuclear-armed Iran, secures America and our allies, including Israel, while avoiding yet another Middle East conflict. Ecco, Barack Obama, al discorso dello Stato dell'Unione, chiede al Congresso di non votare subito, di rimandare il voto su certe nuove sanzioni che potrebbero essere imposte sull'Iran nel caso non si trovi un accordo nel negoziato che gli Stati Uniti stanno conducendo per convincere l'Iran a fare a meno dei suoi programmi nucleari, soprattutto quelli militari. Ebbene, che è successo? È successo che ieri l'amministrazione Obama ha attaccato l'ambasciatore israeliano a Washington, Ron Dermer, accusandolo di aver interferito con la politica interna americana, lavorando a un intervento che avverrà in marzo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, e che parlerà davanti al Congresso riunito in seduta plenaria proprio, guarda caso, sull'Iran. L'invito a Netanyahu è arrivato dal presidente della Camera John Boehner, l'ambasciatore lo ha accettato, ma la cosa è stata presa malissimo, malissimo alla Casa Bianca, e c'è stato un leak, c'è stata una fonte vicina al presidente Obama che ha detto al New York Times in modo anonimo che la decisione di Netanyahu di concordare un discorso sull'Iran davanti al Parlamento americano senza informare l'amministrazione, perché questo è l'oggetto del contendere, si sono messi d'accordo col Congresso ma non hanno informato la Casa Bianca, rappresenta una gravissima violazione dell'etichetta diplomatica. Di più, c'è un attacco frontale, vi dicevo, contro Ron Dermer, è stato accusato dalla Casa Bianca di manipolazione, di voler favorire gli interessi politici personali di Netanyahu invece di quelli dello Stato di Israele. E Netanyahu, in effetti, si presenterà alle elezioni pochi giorni dopo il discorso, e dunque questo discorso in Parlamento, questo grande onore che riceverà, potrebbe, dovrebbe aiutarlo anche alle elezioni. Però la Casa Bianca non definirà Dermer come persona non grata, ecco, non credo che arrivi a tanto, ma di certo l'attacco è stato talmente violento da far capire che sarebbero ben felici se Netanyahu lo andasse a sostituire, cosa che non succederà, perché Netanyahu è molto molto vicino a Dermer, il quale Dermer è in realtà nato negli Stati Uniti, è cresciuto in America, si è laureato in America, dopodiché ha preso la cittadinanza israeliana ed era un militante nelle file repubblicane. Per questo i democratici sono furibondi. Il problema per Obama qual è? È che sta facendo, secondo me, una tempesta in un bicchiere d'acqua, perché i democratici in Congresso, in Parlamento, in Senato, alla Camera, non può immaginare Barack Obama che non vadano ad ascoltare Netanyahu, che rappresenta il principale alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente, e quando va a parlare di un tema così forte, così importante come quello iraniano. Dunque io credo che questa reazione della Casa Bianca sia stata una reazione, come dire, forse eccessiva, ma ci dà la misura di quanto la situazione a livello internazionale sia davvero densa di tensioni. Tra l'altro, proprio ieri, per Barack Obama c'è stato uno smacco, perché questa proposta di legge per le sanzioni, la legge Menendez-Kirk, è stata approvata al Senato e poi passerà alla Camera, ma quello che interessa è il voto. È passata la Commissione bancaria senatoriale questa legge con una maggioranza di 18 voti a 4, quindi una vittoria assoluta alla quale hanno contribuito 6 democratici, fra questi il senatore Bob Casey della Pennsylvania, per tornare poi all'apertura di quello che vi dicevo, che ha sottolineato quanto sia preoccupato dall'Iran. Perché? Perché ha detto: l'attacco di Hezbollah contro Israele nei giorni scorsi è stato certamente condotto con il beneplacito di Teheran. Sappiamo che Teheran finanzia Hezbollah e Hezbollah non fa nulla senza l'autorizzazione dell'Iran. E ha aggiunto, dice, questo mentre in teoria stanno negoziando con noi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, ho scelto Katy Perry perché con Lenny Kravitz darà vita al grande spettacolo che si terrà a metà tempo, nell'intervallo del Super Bowl, tratto dall'album Teenage Dream del 2010, Fireworks, fuochi d'artificio come quelli che vedremo domenica al Super Bowl. You just gotta ignite, light, and let it shine, just on the night, like the 4th of July, cause baby you're a firework, come on, show them where you were, make them go Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. Amen.